La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, sono le 16:30 minuti in punto qui dagli studi di Milano della Radio. Vi saluto Oscar Giannino, vi ringrazio per l'ascolto in diretto in podcast. Vi ricordo l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it. Arrivano ancora molte mail da parte vostra, continuo a ripetere ogni giorno, su informazioni per prodotti finanziari comprati in banca, la disciplina della risoluzione bancaria, il bail-in, e continuate pure a scrivere, noi vi rispondiamo se la mandate a me oppure a Sebastiano Barisoni, Deborah Rosciani, siamo a vostra disposizione, naturalmente anche per temi per puntata. Ringrazio tutti coloro che mi hanno scritto dopo la puntata di ieri dedicata al parrucchiere del centro di Napoli che ha denunciato il racket e sottoposto a programma di vigilanza e però in calo verticale di affari, e devo dire che sono stato molto colpito da quanti da Napoli abbiate scritto, devo dire la maggior parte di voi sostenendo anche la tesi ieri che ci ha detto l'assessore a proposito di una volontà di non piegarsi, per così dire, però tanti altri anche dolenti di fronte all'idea che è molto facile chiedere gesti di coraggio civile, ma poi la forza, il monopolio della forza viene esercitato in realtà dalle famiglie criminali che dominano in città e non solo nella città. Moltissimi di voi invece hanno chiesto più attenzione con l'informazione per il sud su Napoli. Devo dire che secondo me avete ragione, io tenterò di farlo perché resto convinto che in realtà nella divergenza accumulata in questi anni o recuperiamo delle priorità per il sud, evitando gli errori del passato chiaramente, oppure l'Italia comunque non riprende tassi di crescita complessivi elevati. Andiamo alla puntata di oggi però, perché si avvicinano le feste, e si avvicinano le feste per molti, le feste sono non solo nelle feste, ma insomma qualche occasione in più per consumare bollicine e vino, e allora come facciamo praticamente tutti gli anni, appuntamento oggi con a che punto siamo con il settore del vino, appunto la produzione enologica nel nostro paese, un punto di forza della nostra industria agroalimentare, del nostro export, sullo sfondo i dati di come stanno andando le cose quest'anno, sullo sfondo la storicissima contesa con i francesi sui mercati internazionali e un po' di osservazioni su come si evolve in Italia la percezione e il consumo del vino rispetto agli anni che abbiamo alle nostre spalle. L'occasione per parlarne è la nascita pochi giorni fa di un osservatorio appunto nazionale sul vino con animato da l'Unione Italiana Vini, che ha una storia che affonda la sua radice nel 1895 addirittura per iniziativa di un gruppo di commercianti di vino e che poi si è evoluta nel tempo e a oggi questa associazione rappresenta più del 50% del fatturato nazionale del settore del commercio vinicolo e soprattutto l'85% dell'export, e la volontà appunto dell'Unione Italiana Vini è stata quella di dotarsi di uno strumento moderno di rilevazione di dati sia sulla percezione del vino, sia sull'evoluzione dei consumi, sia sulle vendite per diversi canali di distribuzione, sia sull'export, per dare uno spessore anche statistico alle rilevazioni su questo settore di eccellenza italiana, che abitualmente invece negli anni continuava ad avere dei buchi da questo punto di vista, perché c'erano delle stime sulla produzione che poi non venivano confermate, insomma c'erano delle difficoltà ancora non colmate. Allora abbiamo con noi per parlare delle diverse questioni, per fare un punto su come sta andando quest'anno, come sta andando l'export del vino nel nostro paese, il segretario generale appunto dell'Unione Italiana Vini, che è Paolo Castelletti, e che ringrazio di essere con noi. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei Oscar e a tutti i radioascoltatori, grazie per l'invito. Allora, prima di iniziare questa chiacchierata però dirò a voi che siete in ascolto di chiamarci all'800240024 per rispondere a un paio di domande. Primo, se sia vero ancora oppure no che voi nei prossimi giorni ci date dentro, per così dire, ma con quale criterio lo fate, per così dire? Cambiate il vostro stile di consumo o semplicemente bevete un po' di più di quello che bevete durante l'anno? Oppure, seconda domanda, avete anche voi, come risulta dai dati, negli anni in realtà diminuito diminuito e cambiato anche di qualità il vostro consumo di vini, oppure è legato soprattutto il cambiamento del vostro consumo alle occasioni episodiche, quando uscite con amici, quando andate al ristorante, eccetera, eccetera, mentre nel vostro consumo casalingo siete, per così dire, sufficientemente fedeli. Però fedeli a che tipo di vino? A un vino commerciale di quelli sfusi, di basso livello, agli IGT, alla denominazione d'origine controllata o controllata e garantita? Preferite bere meno ma meglio, e però significa anche elevare il prezzo medio della bottiglia, ma a questo punto bevendo meno? Insomma, il vostro rapporto con il vino può valere una telefonata per farci capire meglio al numero 800 24 00 24. Allora, Castelletti, cominciamo un secondo con lo spiegare. Questo osservatorio del vino, in realtà, finalmente, mi viene da dire, perché io avevo come punto di riferimento annuale in realtà il rapporto che ogni anno, da un bel po' di anni, Mediobanca riserva al settore vitivinicolo, che però ha una caratteristica soprattutto finanziaria, molto utile a dire la verità, però aveva anche, tra virgolette, un po' il difetto di non essere elaborato direttamente dalle associazioni di settore, quindi con i dati di prima mano dalle aziende, quindi arrivava con un certo ritardo. Quindi come mai questo ritardo? Ma perché in realtà raccogliere e mettere assieme dati non è una cosa così semplice. Quello di Mediobanca, appunto, come dice lei, si rifaceva sostanzialmente a dati di natura finanziaria. Sì. Quello che abbiamo fatto nascere noi, non perché l'abbiamo voluto noi, ma perché l'hanno voluto le aziende, invece parte da dati assolutamente oggettivi. E quindi consente di avere un punto di riferimento. Come, prima di arrivare a come si è modificato il tipo di consumo degli italiani, vediamo un pochino i dati più aggiornati dell'anno che abbiamo per diverse tipologie di vino e sull'export. Come stanno andando le cose in questo 2015? Il 2015 sta dando ancora delle buone soddisfazioni, anche se il contesto economico è quello che ovviamente risponde molto meglio l'export rispetto al consumo interno. Cresciamo anche quest'anno, raggiungeremo probabilmente i 5,5 miliardi in valore contro i 5,1 del 2014. Il consumo interno, soprattutto quello del canale Horeca, quindi ristorazione, enoteche eccetera, è in ripresa rispetto al 2014 di un 3-3,5%, quindi diciamo che i numeri ci danno qualche buona soddisfazione anche da questo punto di vista. Certo, se andiamo a vedere in una delle relazioni che avete presentato quando la settimana scorsa è nato questo osservatorio, è abbastanza impressionante, è un dato noto, però riepilogo solo qualche numero che poi lascio a lei interpretare. Se andiamo a vedere i consumi di vino in Italia, i consumi totali, il milione di ettolitri, in 10 anni, dal 2005 al 2015, siamo passati da 28,5 milioni di ettolitri a 21,4, e quindi in termini di consumi pro capite in litri, da 48,7 a 34,8 litri pro capite, e il vino è sceso come percentuale della totale della categoria degli alcolici consumati in Italia. Nel 2005 era il 61% e nel 2015 è il 56%. Che cos'è? È una disaffezione per evoluzione dei consumi dovuti a un mix diverso, come evoluzione temporale che avviene anche negli altri paesi avanzati, oppure è espressione di una risposta in questi ultimi anni, soprattutto di crisi, al fatto che c'è una disaffezione rispetto alla caduta del reddito disponibile pro capite, in particolare verso il vino? Ma dal nostro punto di vista le due cose in realtà messe assieme, c'è una evoluzione, si consuma meno, si consuma ovviamente meglio. 10, 15, 20 anni fa sicuramente il vino era alimento, oggi è bene voluttuario, bene di piacere, e quindi c'è stata questa inversione di tendenza. Peraltro eravamo un paese che produceva molti più ettolitri di vino rispetto ad adesso. Quindi è calato il consumo, ma è calata anche la produzione, riorientata verso le produzioni chiaramente di qualità. Dall'altra parte sicuramente la crisi economica non ha aiutato, diciamo che questo calo del consumo interno, peraltro uguale in Spagna quanto in Francia, è stato compensato ampiamente dalle esportazioni, soprattutto su alcuni mercati, penso soprattutto agli Stati Uniti, al Canada, ad alcuni mercati del nord Europa. Quindi, però certo la modifica del comportamento, se estendiamo il nostro orizzonte temporale invece che a un rapporto degli ultimi 10 anni, 2005-2015, come abbiamo fatto per i numeri che ho citato prima, lo estendiamo in un arco temporale ventennale, cioè 1994-2014, è abbastanza impressionante rilevare come noi siamo passati, per quello che riguarda i consumatori abituali in Italia, cioè stiamo parlando di più di mezzo litro al giorno, erano 4 milioni nel 93, sono 1.300.000 nel 2014. Pesano anche delle componenti, per così dire, di tra virgolette salute, di autopreservazione in questo tipo di consumo così significativamente minore? Oserei dire esattamente l'opposto, ovvero l'importazione di modelli di consumo tipicamente nord europei, quindi non di consumo di prodotti alcolici, soprattutto vino, legati ai pasti, ma modelli di consumo appunto legati al fuoripasto e soprattutto con prodotti non strettamente vinicoli, che talvolta, diciamo, proprio dal punto di vista della salute sono sicuramente. Anche perché se è peggiori. Diminuita la parte del vino nel totale del consumo degli alcolici, per capirci, aperitivi e cose di questo genere, quelli sono alcolici a gradazione maggiore, quindi impatto certamente maggiore sulla salute, fegato, metabolismo e così via. Quindi attenzione, se siete in ascolto credendo di bere meno vino, ma perché state meglio, ma poi bevete più alcolici più pesanti, chiaramente è un'equazione che vi raccontate, ma per così dire è una equazione che non sta in piedi, per così dire. Di dire qua che c'è anche una colpa dei produttori, che hanno preservato poca attenzione al mercato interno, hanno orientato molto le loro politiche di comunicazione appunto verso paesi extra europei. Oggi c'è una riflessione in atto, non solo in Italia ma in generale in paesi principali produttori, penso ad esempio alla Spagna, che sta costituendo un'associazione interprofessionale con un prelievo fatto direttamente dalle aziende, che avrà la funzione di fare attività di promozione non del consumo per consumare, ma una promozione del vino legata soprattutto, come dicevo prima, a modelli di consumo al cibo, quindi a pranzo, a cena, ricordandoci appunto che comunque il mercato interno rappresenta ancora il 50%, una fetta assolutamente importante, ripeto, forse un po' tralasciata dalle aziende, dalle imprese, a favore di mercati ancora non maturi e che gradualmente stanno diventando maturi, come quelli nordamericani. Però se rimaniamo sempre fermo su questo tema della, come devo dire, dell'accompagnamento attraverso politiche commerciali, di marketing ben mirate alla trasformazione dei consumi così profonda e radicale che è avvenuta nel nostro paese. E in un'altra slide, quella che avete presentato, molto interessante, c'è la differenza valutata nel tipo di consumi su vino e altre bevande alcoliche tra due generazioni. Una generazione, la mia per capirci, cioè i baby boomers, che è nato ancora all'inizio degli anni 60, quando l'Italia era in una certa prospettiva di crescita post-dopoguerra molto più forte come tassi medi di crescita annuale, e la generazione successiva, poi millennial. Le differenze sono radicali, cioè mentre la mia generazione aveva consumi fuori da casa molto più bassi, quelli della generazione successiva si triplicano, si quintuplicano quello dei superalcolici, si raddoppiano quelli della birra e naturalmente diminuiscono in proporzione quelli del vino. Quindi di fronte, se uno va a vedere lo spritz, tanto per dirne un altro, nella mia generazione stava al 13%, nelle generazioni successive sta al 55%. Cioè è una modifica proprio radicale del comportamento di consumo nei confronti degli alcolici. Le faccio una domanda. Io ho un'impressione, forse sbagliata, mi dica lei. Mentre nell'industria degli alimenti, in generale, la parte che si vede nel marketing, nella pubblicità, rivolta al interpretare momento per momento con le campagne commerciali, quindi almeno due volte all'anno, la modifica dei comportamenti di consumo, questo nelle campagne di advertising del settore del vino italiano non c'è, o è proprio solo sullo sfondo qualche accenno? Come mai? Ma intanto tenga conto che ad esempio abbiamo divieti di fare promozione sul mercato interno, la stessa regolamentazione comunitaria ci vieta di fare promozioni su brand, si stanno moltiplicando politiche di tipo sanitario, per cui ormai il bicchiere di vino diventa peggio di una di uno spinello. Si cerca di risolvere problemi di deviazione che, ripeto, rappresentano però una percentuale piccolissima della società civile, immaginando appunto mediante la tassazione e etichettature stranissime del tipo il vino uccide. Questo è quello che sta pensando la nostra politica, soprattutto quella europea, senza affrontare in maniera disciplinata la questione come l'ha rappresentata lei. Oggi il giovane non ha la cultura del vino, non conosce il vino, non conosce la nostra storia, e quindi è evidente che si rifaccia a modelli di consumo e a prodotti che sono molto lontani dal vino, sono spiegati sicuramente molto meglio, perché gli investimenti pubblicitari in questi fatti direttamente dalle aziende sono notevolmente più elevati. Tenga conto poi che le aziende degli spirits hanno delle marginalità economiche stratosferiche rispetto a una banale azienda di vino. Senta, dove le marginalità sono bassissime. C'è ancora un problema di tutela dal punto di vista dei marchi, di garanzia per la produzione italiana sui mercati internazionali, alla luce dell'evoluzione del tempo della nostra disciplina su DOC, OCG, IGT, rispetto alla disciplina europea di tutela? C'è ancora una finestra aperta per le contraffazioni, in altre parole, nei grandi mercati, penso innanzitutto e soprattutto negli Stati Uniti? Ma allora, intanto la politica di anticontraffazione non è nazionale ma è comunitaria. Esatto. Sicuramente l'Italia ha adottato politiche più virtuose, perché la certificazione dei nostri prodotti DOC è sistematica, cioè bottiglia per bottiglia, partita per partita. In più abbiamo un contrassegno di Stato che garantisce e traccia completamente. Ma a livello europeo siamo abbastanza tutelati o no? Diciamo che probabilmente l'Italia è forse il paese più virtuoso da questo punto di vista. In generale mi sento di dire che le politiche comunitarie hanno garantito ampiamente il consumatore da questo punto di vista. Sa che in altri settori purtroppo le produzioni italiane hanno ancora un problema irrisolto di tutela del made in Italy, però lei ci dice su questo insomma ci siamo difesi abbastanza bene. Allora torniamo tra un minuto, perché c'è un'informazione sul traffico, sempre parlando a che punto siamo in questo 2015 per l'industria del vino italiano, con il segretario generale dell'Unione Italiana Vini Paolo Castelletti. Tra un minuto. La versione di Oscar. Facendo un punto dell'andamento del settore del vino nel nostro paese, lo spunto è questo osservatore del vino che dopo anni è nato per iniziativa dell'Unione Italiana Vini, componente storica della rappresentanza di oltre il 50% del fatturato del settore nel nostro paese e l'85% dell'export. Abbiamo visto un po' come si è modificato il comportamento di consumo degli italiani, abbiamo avuto anche una stima dell'andamento dell'export, 5,5 miliardi in questo 2015, è un obiettivo raggiungibile oramai, che sarà raggiunto, quindi in crescita rispetto ai 5,1 miliardi dell'anno scorso. Prima di ricominciare con Paolo Castelletti, che è il nostro ospite, il segretario generale dell'Unione Italiana Vini, vedo che ci sono diverse telefonate, quindi ascoltiamole, poi le commentiamo con lui e andiamo poi a vedere una delle componenti, per esempio, del nostro export più tradizionalmente esposta alla concorrenza diretta con i francesi, cioè quella delle bollicine. Ma prima sentiamo Franco, che ci chiama da Vicenza. Franco, prego. Buonasera. Allora, credo che non abbiamo bisogno degli stranieri per fare per taroccare il vino, visto quello che è successo col Prosecco, col Sauvignon ultimamente, per cui ci arrangiamo già da soli. Secondo, io ho visto, essendo un produttore, facendo parte anche di un gruppo dove facciamo degustazioni, che molti giovani si sono avvicinati al vino, e se tu fai conoscere il vino questi non si ubriacheranno, perché uno che ama il vino non si ubriaca, altrimenti non perde i gusti, perde tutto il fascino. Invece la componente che è veramente il limite sono i ristoratori, perché a parte i ristoratori di alta gamma, i ristoratori medi hanno pochissima conoscenza del vino e le loro carte dei vini li fanno i rappresentanti o altri personaggi che girano a vendere. Hanno pochissima conoscenza del vino, per cui trasmettono poco la qualità delle produzioni. Questo è veramente uno dei limiti. E purtroppo la ristorazione è uno dei canali, insomma, prioritari per la distribuzione sul mercato domestico. Sentiamo Cristina da Bergamo. Cristina, prego. Buonasera. Oscar, sono una vecchia sommelier, 25 anni di carriera, come dire. Vabbè, vecchia adesso, però. Quindi, no, vabbè, quindi grande conoscenza del mercato del vino. Io tre cose. Una, è vero, se tu insegni, io tengo molti corsi, se tu insegni la passione ti porta ad apprezzare il nostro grandissimo prodotto. Ha ragione Castelletti, noi abbiamo un'etichettatura meravigliosa e dei prodotti veramente ottimi. Due, non occorre spendere cifre folli per bere bene, verissimo. Abbiamo una qualità di base veramente molto alta. Un unico ricordo, le bollicine sono anche il meraviglioso moscato d'asti naturale che col nostro panettone e che non ha un prezzo folle, certo. Anzi si può bere a livello, ad altissimo livello, con cifre molto normali. E l'altra cosa è la demonizzazione, chi beve vino è un demone quasi. Non sentirà mai me o un sommelier o un appassionato di vino consigliare le grandi quantità di vino. Basta poco, di ottima qualità, per avere un ottimo connubio con la nostra grande cucina. Santa però, parola. Lei è in giro e se beve è demonizzato anche a tavola. Io sono una donna che beve in maniera assolutamente moderata. Ah, tu bevi tantissime volte, mi sento dire questa cosa, no? Ed è assolutamente normale, è fa parte della nostra cultura. Io però lo sento anche dire da chi poi aperitiveggia e ingurgita non solo calorie ma sberla di roba, che a quel punto un sano bicchiere di vino a pasto secondo me è, per così dire, un gotto di salute in confronto, ma questa è un'opinione mia personale. Sentiamo Marco dalla provincia di Arezzo. Sono io? Sì, Marco, prego. Buonasera. Ma io volevo salutare lei e tutti i radioascoltatori. Un problema che ha sollevato il dottor Castelletti, il mercato italiano potrebbe valere il 50% del mercato nel momento in cui avessimo gli strumenti per esigere le nostre fatture. Anche voi avete un problema dei ritardati pagamenti. Non è che abbiamo, è un problema enorme. Il problema. Aziende su aziende che chiudono. Perché non abbiamo gli strumenti, dobbiamo pagare l'IVA, dobbiamo pagarci tutto quello che c'è da pagare. Come è noto, lo Stato. Se non ci pagano, non si ha nessuno strumento di rivalsa. Assolutamente. Io da questo punto di vista, Marco, non posso che ripetere una litania quando il problema è la regolarità del rapporto tra privati. Cito sempre l'esempio di quello che ci siamo inventati a Milano, in tutt'altro settore, sto parlando di Assolombarda, protocolli pubblici in cui le aziende private si impegnano, i grandi con i piccoli, a rispettare i tempi, perché altrimenti ne viene un danno reputazionale pubblico, e questo credo che sia l'unica cosa che si può fare tra privati, mentre con lo Stato abbiamo preteso, anche se il problema non è stato risolto, di rendere più celeri i pagamenti in rispetto della direttiva comunitaria. Naturalmente non ci siamo ancora, perché poi alla fine 75 miliardi restano di debito commerciale dello Stato alle imprese, però tra privati bisogna fare proprio dei patti pubblici dove il danno reputazionale sia accettato da chi non paga come il prezzo che si paga, però ripeto, in pubblico. Torniamo a Castelletti, è uscita proprio stamane la stima di come sta andando il settore delle bollicine, per così dire, sotto le feste, ma lungo tutto il 2015. Mi pare abbastanza soddisfacente o no? Direi assolutamente di sì, abbiamo un ottimo trend di crescita, come diceva Cristina, la sommelier di Bergamo, abbiamo prodotti di altissima qualità, anche a prezzi sicuramente interessanti, raggiungeremo 519 milioni di bottiglie, quindi superando per la seconda volta quest'anno i cugini francesi, buona parte di queste bottiglie, 362 milioni, saranno destinate all'export e 157 milioni mentre per il consumo interno. Ecco, teniamo conto, sottolineiamo il fatto che purtroppo ancora il consumo dei vini spumanti in Italia è molto legato alle festività, sì. Soprattutto a quelle natalizie, quindi andrebbe migliorato da questo punto di vista. Chiediamo aiuto ai sommelier, perché la bollicina si può accompagnare tranquillamente a tutto pasto. anche questa in definitiva poi è una questione di sensibilizzazione culturale al gusto, alla spiegazione delle caratteristiche organolettiche di questi prodotti che si legano ai piatti ordinari e non solo ai dolci e alle feste. Quindi attualmente parla il micro appassionato piemontese che sono io, però da questo punto di vista io ho sempre, le faccio una domanda, fatto una domanda rituale quando faccio i convegni sul vino: è possibile mai che la lezione che ci hanno imparato i francesi per tanti anni, presentandosi prima ai grandi mercati internazionali, anche in Asia, dove c'è un consumatore che si sta evolvendo a decine e decine di milioni, pronto a una spesa media su prodotti anche di segmento medio ed elevato, ed elevatissimo, però loro lo hanno fatto con proprie catene di distribuzione, lo hanno fatto, mentre noi non abbiamo grandi catene di distribuzione italiane sull'estero, cioè la Coop, Esselunga, si fanno la guerra in Italia, ma non hanno capito che bisognava mettere in piedi catene distributive in cui presentare l'orizzontale e la verticale di tutti i nostri prodotti dell'eccellenza agroalimentare. Come si supera questo limite rispetto ai francesi nella distribuzione? In questo caso stiamo parlando retail, però a un segmento elevato di quei mercati che sono in fortissimo sviluppo come la Cina. Allora, guardi, proprio oggi arriviamo da un incontro con il Ministero dello Sviluppo Economico su questa tematica. Fatto salvo quello che dice lei, che ovviamente non disponiamo di catene di distribuzione, e questo è un grosso limite. E il problema di fondo è che in realtà soprattutto la Cina, più di altri mercati asiatici, non ci concepiscono come paese produttore di vino. Pazzesco, ma tenga conto però che i francesi sono partiti 20-25 anni fa nel fare queste operazioni, per cui partiamo con un gap abbastanza importante. In realtà stiamo velocizzando le azioni, abbiamo chiesto aiuto allo sviluppo economico, non abbiamo bisogno di promozionare i brand, abbiamo bisogno di promozionare il sistema paese, lo stiamo facendo, cointeressando altre ristorazioni e sommellerie cinese che a loro volta farà operazioni di formazione e informazione presso il consumatore cinese. E auguriamoci che questa catena si metta rapidamente in moto, ci consenta, per così dire, di recuperare il gap. Comunque, grazie Castelletti, a tutti un consiglio: bevete bene, non bevete troppo, ma non credete a chi vi dice che il vino è veleno, per favore, no. Continuate su Radio 24, appuntamento al mattino alle 8:15 con Alessandro Milan su Attenti a Noi Due.